e riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Ringrazio e saluto il commissario superiore, comandante del distaccamento della forestale di Lascari, Roberto Pecoraro, che ci ha raggiunto ora in studio. Sappiamo che il suo lavoro è improbo in questi momenti ed è difficile, difficoltoso, e il fatto che sia venuto alla radio anche in condizioni di assoluta difficoltà, ancora sudato, e appunto merita ancora un ringraziamento ancora di più. Ma vi dicevo che c'è anche l'avvocato Vito Punzi, presidente dell'Auser, il quale inizierà tra poco, il 4 di ottobre, l'attività dell'associazione con una prolusione del professor Franco La Rosa, ecco, uno psichiatra di valore, di grande valore, che aprirà l'anno sociale, appunto, e Vito Punzi è anche qui per illustrare, diciamo, questo programma. Ecco, Vito, come si articolerà, come Franco La Rosa inizierà, quale sarà il tema che Franco La Rosa proporrà ai radioascoltatori a coloro che partecipano alla sua conferenza giorno 4 di ottobre? Intanto ringrazio signor Arduino, ringrazio te Mario di questa ennesima opportunità che è data all'Auser di far conoscere le proprie iniziative, il proprio programma, che è rivolto principalmente agli associati, ma vuol far conoscere al resto della comunità come ci si occupi, oltre che del corpo, così come fa il dottore D'Angelo all'ospedale, anche dello spirito e della mente. È un po' di tutto, all'ospedale proprio c'è un po' di. E soprattutto ai malanni fisici, dei quali. Ma basta fermarsi ai malanni fisici, perché oltre ai malanni fisici ci sono pure i malanni di pensiero, soprattutto di pensiero. In periodo di crisi c'è logico, proprio c'è questa necessità. E quindi noi abbiamo organizzato un calendario di attività, dico noi perché mi piace ribadire che è un'equipe che gestisce e porta avanti da oltre 10 anni le iniziative del Circolo Auser di Cefalù, che conta oltre 80 iscritti, insomma ritengo che sia tra le associazioni più numerose e più frequentate della nostra città. Ecco, quindi ci siamo avvalsi della collaborazione del preside del Monapoli, del professor Antista, di Pinanzaldi, di Pinafatta, di Poco Nunzio, di Cesco, di Lipira, Mimmo Lipira, del segretario della Camera del Lavoro Guarcello e della mia persona, che componiamo il nuovo direttivo del Circolo Auser. E che tu presiedi. E che io ormai per il terzo ciclo sto presidendo e ritengo che sarà l'ultimo. Ma abbiamo già preparato il terreno perché si possa continuare in questo impegno nell'interesse della terza età. Quindi quest'anno il programma prevede, come tu già anticipavi, la prolusione del professor Franco La Rosa, che è il rettore della nostra Università Popolare del Tempo Libero e dell'Educazione Permanente, che ci parlerà del conflitto, violenza, aggressività in tempi moderni. Il tema, anche questo, è di grande attualità in un momento di crisi. Alla conferenza di Franco La Rosa probabilmente assisterà anche, considerato il tema della violenza, Manfredi Borsellino, il commissario di Cefalù, al quale abbiamo affidato il compito di una seconda conferenza il giovedì giorno successivo, 11, giorno 11. Lui parlerà dei furti e rapine nei confronti degli anziani in periodo di crisi. A Cefalù ci sono state delle grosse esperienze fatte dal commissario Manfredi, è bene che vengano portate a conoscenza e soprattutto vengano date agli anziani dei consigli per difendersi da questo. Salvaguardare. Ce li dà tante volte il commissario Pecoraro per quanto riguarda gli incendi, le campagne, la prevenzione, tante cose. Manfredi Borsellino, ci dobbiamo guardare anche da quest'altra triste fenomeno della violenza. Poi ci avremo il 18 ottobre l'assemblea dei soci, che dovrà mettere ancora a fuoco il programma, E quindi avremo il 25 ottobre la dottoressa Concetta Cusimano che ci parlerà di un'affezione che interessa molto gli anziani, il ruolo del podologo nelle comuni affezioni dei piedi. È un fenomeno molto diffuso, una patologia molto diffusa. Viene quindi ritorna l'8 novembre, dopo aver tenuto un'ottima conferenza sulla Costituzione, il magistrato Calogero Cammarata, che è stato già magistrato a Cefalù, per trattare un tema molto intrigante e molto, che suscita molto interesse, almeno ritengo per le persone intelligenti e sensibili. La decrescita felice, ovvero come si esce dalla società dei consumi. Cioè, oggi che si parla sempre di crescita, crescita, crescita, bene, si fa controtendenza. La crescita all'infinito sarebbe la fine del mondo. Il dottore Cammarata ci verrà a parlare invece della decrescita, come far rallentare questa crescita per distribuire le risorse in modo più equo su tutto il pianeta. E quindi ci sarà Chiara Shalab, la figlia di Giuseppina, dottoressa Chiara Shalab, che in data di 15 novembre, sempre di giovedì, un giovedì dietro l'altro, che in previsione della gita che pensiamo di realizzare a San Mauro, avendo lei svolto la tesi di laurea su San Mauro, ci parlerà di San Mauro Castelverde, appunto in previsione della gita che si farà il giorno 17 novembre. Il 22 novembre avremo te, caro Mario, che finalmente mi hai accettato di venirmi a dare il tuo contributo di esperienza nel campo che è stato grossissimo del maxi processo. E il tuo tema sarà il maxi processo alla mafia, come è cambiata la società nei confronti della mafia in 25 anni dal maxi processo ad oggi. E ti seguiremo con molta attenzione. Il 29 novembre il preside Elmo Napoli, che è il vicepresidente vicario del circolo e che ha fatto una incredibile esperienza manuale ed intellettuale, perché non è soltanto un fatto manuale, costruendosi un violino e una ghironda, funzionante perfettamente. Li porterà al cospetto dei soci e ci spiegherà come è arrivato a realizzare con tanta perfezione, io che le ho già viste, e quindi è il Monopoli, la liuteria, un percorso ravvicinato. Poi verrà la lezione il 6 dicembre di Giovanni Mendola, fisicità, arti marziali nell'anziano. Anche questo è il problema degli esercizi ginnici e quindi del movimento per gli anziani è molto importante. Quindi il 13 dicembre ritorna il professor Enzo Guzzo di Palermo, lo splendore dato, lo splendore negato, le cattedrali normanne del palermitano. Quindi si parlerà della cattedrale di Palermo, di Cefalù e di Monreale. Il 20 dicembre, alla vigilia di Natale, Filomena Restivo e Adriana Virga organizzeranno un recital di canzoni e poesie dedicate al Natale. Il 10 gennaio Giuseppe Caldiero, un medico, un radiologo, lo conosci, vedo, e ci parlerà la scuola medica siciliana. Anna Maria Solli, ma abbiamo due incontri musicali con la stessa professoressa Sollima. Il 17 gennaio, dicevo, l'itinerario artistico di Giuseppe Verdi, operista innovatore nella tradizione. E il giovedì successivo, il 24 gennaio, la stessa professoressa Anna Maria Sollima, suoni, rumori e silenzi nella musica del Novecento. Vedo Livio che mi parla con attenzione. Lui di musica, è un intenditore, quindi sarai presente. Figlia di Leodoro, ma tra l'altro grandissima, tua amica, competente in storia della musica, quindi è una persona veramente eccezionale. Si è prestato con una generosità incredibile, quindi proprio la vedo che segue le sorti del circo di Cefalù con grande interesse, Anna Maria Solli. Torna poi a Elmo Napoli il 13 gennaio, in previsione di una gita a Palermo, 31 gennaio, in previsione di una gita particolare a Palermo, già ne abbiamo fatta qualcuna, più di una. E il titolo dell'escursione a Palermo è Palermo, itinerario storico urbanistico sull'asse di via Vittorio Emanuele. Cioè noi percorreremo tutto l'asse di via Vittorio Emanuele alla ricerca e alla scoperta dell'archeologia e delle opere architettoniche che caratterizzano quest'asse intorno al quale si è sviluppata la città di Palermo. E quindi il 14 febbraio faremo la gita a Palermo, il 21 febbraio faremo di nuovo la seconda assemblea dei soci, il 28 febbraio Nino Di Paola mi ha accontentato per una lezione sull'aneurisma della aorta addominale. Il 7 marzo Giuseppe Salerno, il violino del diavolo, Paganini a Palermo. Questo è un altro fratello che si interessa di liuteria. Ma è felice. Di liuteria. Felice il Debrando D'Angelo che dirige il coro. Sì, sì, il programma di quest'anno è particolarmente segnato da interventi di carattere musicale. Sì. Mi pare che sia una cosa gradita. Poi abbiamo Eugenio Scarnici il 21 marzo. Ah no, mi stavo saltando un importante. Il 14 marzo c'è Anna Carreca, la ricerca del buon umore come cura del corpo e dell'anima. Anche questa sarà molto interessante e gradita. Non c'è dubbio. Con Anna ho lavorato parecchio tempo a Palermo. Ah sì, bello, mi piace. Quindi io non lo conosco, fisicamente non lo conosco, però l'ho contattato e ho visto la sua grande disponibilità. Ripeto, la ricerca del buon umore come cura del corpo e dell'anima. Il 21 marzo Eugenio Scarnici, è uno studioso delle nostre parti, il professore Scarnici, ci parlerà dell'acqua, fonte di luce e di progresso per le Madonie. C'è tutta una problematica intorno al problema dell'acqua nelle Madonie. Adriana Virga ci tornerà sul discorso della musica e ci parlerà musica e danza nella storia e nell'arte. Viene dopo l'esperimento che faremo negli incontri precedenti, ma insomma sarà ugualmente utile. Giorgia Butera, dottoressa Giorgia Butera, l'azione medico-sociale di Emergency in ogni parte del mondo. Non è escluso che riusciremo ad avere un contatto telefonico con Gino Strada. Il 18 aprile Elmo Napoli ci parlerà della gita che programmiamo per il giorno 25 aprile a Isnello. Quindi la gita di Isnello nella ricorrenza del 25 aprile. E il 25 aprile faremo la gita di Isnello e su quindi è un programma molto nutrito. Ci sarà poi un film il 2 maggio, Adriana Virga ritornerà con il fascino di una primavera di Oriente nella poesia flautata, teosofica, cosmica di Tagore, un poeta turco mi pare. E quindi l'ultima assemblea in preparazione della cena finale e se rimane spazio altri due film di un certo interesse come Angeli e Demoni, Shooter Island. Certo. Intanto sembra alle 5 di pomeriggio, dalle 5 alle 7 nella sala delle conferenze. Livio, tu sei venuto un paio di volte. Quindi. Sembra lì. Per dirla chi non lo sa. Ecco, sì, sembra lì. Sì, sì, sembra al Mangiarisca. Sembra al Mangiarisca. Ogni incontro, ogni conferenza verrà, come ogni anno, pubblicizzata nella locantina del signor Adriano Cammarata. Quindi, cioè, 4 giorni prima, chi volesse avere notizie sulle iniziative dell'Auser non avrà che da rivolgersi all'Adriano Cammarata. Tutto qua. E poi mi lascio una copia del programma, ai nostri radioascoltatori che fossero interessati, perché l'ingresso è assolutamente libero e quindi possono intervenire a queste conferenze e lezioni che si svolgeranno al Mandralisca ogni giovedì alle ore 17. Grazie, avvocato Vito Punzi. Mi scuso con il commissario superiore Roberto Pecoraro perché ha dovuto aspettare un pochettino, sapendo che è impegnatissimo. E quindi, però, ecco, riprendiamo questo discorso degli incendi. Io stamattina ho sentito il Canadair e poi li ho visti che planavano sul mare in direzione di Finale e risalivano sui Nebrodi. È segno che ancora c'erano degli incendi stamattina sui Nebrodi, e quindi i Canadair erano in azione. Non sappiamo. Una nuova pausa, mi chiede il regista Angelo Arduino. Noi la facciamo e poi riprendiamo subito con il commissario Roberto Pecoraro.